Che bella cosa, una giornata sole, l'aria serena, dopo la tempesta. E l'aria fresca pare già una festa. Che bella cosa è una giornata sole. Ma na tu sole, più bello in è. O sole mio, sta in fronte a te. O sole, o sole mio, sta in fronte a te, sta in fronte a te. Quando fa notte, io solo se ne scende, mi viene quasi una malinconia. Sotto finestra togliere sta via, quando fa notte io solo se ne scende. Ma na in fronte a te. Stai in fronte a te.